Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di questo Focus Economia agostano, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Di nuovo si discute di salari regionali, sta diventando quasi un tormentone estivo, ma in realtà la notizia era presentata da un'intervista oggi pubblicata dal quotidiano Il Giornale da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi, che ha detto non ho mai annunciato di voler agganciare gli salari al costo della vita, ma il riferimento era appunto alla contrattazione di carattere aziendale. Altri interventi su questo, mentre continuano a uscire, ieri l'abbiamo definito un profluvio, ma insomma uscire dati sul costo della vita a seconda che si sia singola Milano oppure Palermo, e anche i dati sugli stipendi delle diverse categorie, quindi manager, dirigenti, quadri, impiegati, operai, a seconda di dove si abiti. Il tutto in un giorno in cui l'Istat ci ha confermato inflazione pari a zero in Italia, lo ricordava anche il nostro GR, e in cui, per quello che riguarda l'economia, in questo caso la finanza internazionale, si è raggiunto un accordo tra UBS e il Dipartimento americano. Perché? Perché l'America vuole, si dice, fino a 100.000 nomi di contribuenti americani che avrebbero depositi bancari nei conti UBS in Svizzera. L'accusa mossa dal Dipartimento americano è di evasione, di frode, e vogliono i nomi di questi titolari dei conti correnti. Braccio di ferro con la Repubblica Elvetica e soprattutto con UBS, sembrerebbe raggiunto l'accordo, ne parleremo tra circa mezz'ora, mentre sicuramente l'accordo è stato raggiunto tra Liechtenstein e il governo britannico. Potranno essere diffusi, consegnati alle autorità britanniche, circa 5.000 nomi di depositari di conti correnti in un storico paradiso fiscale da questo punto di vista come il Liechtenstein. Ancora, e ne parleremo, ripeto, dopo i mercati, le borse hanno conosciuto una giornata altalenante, nel senso che prima dell'apertura di Wall Street gli indici erano leggermente positivi, ma dello 0,2, dello 0,3%, poi invece l'apertura di Wall Street più che positiva, adesso il Dow Jones guadagna l'1,3%, ha portato al rialzo tutte le borse europee. Parigi guadagna l'1,4%, Francoforte l'1,1%, Londra l'1%, Milano l'1,1%. In evidenza oggi di nuovo i titoli delle costruzioni, Buzzi Unicem più 4,4%, avvicinissima agli 11 euro per azione. Popolare di Milano continua a correre, più 4%, Enel più 3%, Autogrill più 2,80%, UbiBanca più 2% come Mediaset e Fondiaria Sai. L'1,7% lo guadagnano Pirelli, ST Microelectronics e CIR, ma anche Mediolanum. Infine l'1,6% è il rialzo di Unicredito e di Eni, che guadagna appunto l'1,6%. Tra chi perde, Fiat lo 0,7%, Tenaris l'1,30%, Mediobanca l'1,35%. Le altre notizie, come sempre, in apertura. Fermo restando che il numero per i vostri sms è 349-238-6666 per scrivere al programma. Andiamo avanti con le notizie. Torna inutile dopo tre trimestri di rosso il colosso bancario e finanziario olandese ING, quello conosciuto in Italia per il conto arancio. Infatti il secondo trimestre dell'anno si è chiuso con un utile netto di 71 milioni di euro contro un utile di 1 miliardo e 900 milioni dello scorso anno, ma è il primo utile dopo tre trimestri. È un utile però inferiore alle attese di molti analisti, che lo stimavano in 360 milioni di euro, quindi saremmo praticamente a meno di un quinto rispetto alle attese. Si diceva di UBS che sta guadagnando in borsa dopo che praticamente la disputa avrebbe si è trovato un accordo sulla disputa. I numeri sono diversi, perché da quello che battono le agenzie si tratterebbe di 52.000 correntisti americani, correntisti però nella Svizzera UBS. Tra l'altro, se l'accordo sarà siglato ufficialmente, tutte le accuse a carico dell'Istituto Elvetico cadranno. Nel frattempo dall'America è arrivato un dato che riguarda il deficit commerciale americano, ossia la differenza tra quanto esporta e quanto importa l'America, è peggiorato a 27 miliardi di dollari nel mese di giugno, anche se è peggiorato meno delle attese, ed è peggiorato soprattutto per il prezzo del petrolio, per cui che ha aumentato il valore complessivo delle importazioni. Le esportazioni americane a giugno in realtà hanno fatto un più 2%, trainate soprattutto dalla vendita di prodotti alimentari, petroliferi, chimici e macchine industriali. Le importazioni americane a giugno sono aumentate per via del petrolio, come dicevamo, in valore era più alto il prezzo del petrolio, quindi complessivamente pesa di più, ma anche sono andate bene le importazioni in America di computers e auto straniere, mentre sono crollate le importazioni dei beni di largo consumo. Stasera, così chiudiamo con l'America, vi sarà la riunione del comitato esecutivo della Banca Centrale Americana, il FOMC, che non sono attesi interventi sui tassi, anche perché ricordiamo che ormai i tassi in America sono a zero. Ci spostiamo in Europa perché il consiglio di fabbrica della Opel ha di nuovo respinto l'offerta di Ripplewood, quindi la società belga RHJ International, per l'acquisto dell'Opel. Tra l'altro io ricordo che ieri la cancelliera Angela Merkel ha detto che l'offerta di Magna resta quella da preferirsi. Sempre per quello che riguarda l'economia europea, in Gran Bretagna la disoccupazione è salita ai massimi da 14 anni a questa parte, i disoccupati praticamente hanno toccato 1.580.000 a 2.400.000, poi vengono dati vengono a 220.000 in più questo mese, ma a 2.440.000 sono a questo punto gli aventi diritto in Gran Bretagna ai sussidi, alla disoccupazione. E poi la classifica della produzione industriale, quella italiana già la conoscevamo, è uscita la settimana scorsa, però purtroppo l'Italia è di tutti i paesi dell'area euro quella che ha avuto il calo più forte dopo quello danese nel rapporto mese su mese, cioè si va a vedere come ha fatto giugno rispetto a maggio, che è quello che ci interessa in questo periodo per capire i tempi anche di uscita da questa crisi. Noi abbiamo fatto un meno 1,2%, peggio di noi solo la Danimarca, meno 2,7%. E mentre si attende appunto una ripresa, speriamo il prima possibile, della produzione industriale, ma settembre e ottobre saranno ancora, da quello che capiamo, due mesi di passione, almeno settembre e ottobre, continua il dibattito anche politico ma anche economico sul costo della vita, sul potere d'acquisto, sulla differenziazione salariale, il tutto in una giornata in cui sostanzialmente l'Istat ci conferma che a luglio l'inflazione sta pari a zero e quindi il tasso è ai minimi dal settembre del 1959, quando fece meno 1,1%, ed è pari a zero sia rispetto a luglio del 2008 e sia, non vi è variazione, rispetto a giugno del 2009, tant'è che i prezzi dei prodotti presi, comprati con maggiore frequenza, quelli che si chiamano prodotti per la spesa quotidiana, sono calati dello 0,3% rispetto a un anno prima. Aumentano invece le cosiddette spese estive, ossia per esempio gli stabilimenti balneari, e i prezzi li hanno aumentati, e come, in media del 4,3%. Tutti i dati e anche le variazioni in questa scheda. Stessa spiaggia e stesso mare, ma prezzo diverso. L'effetto crisi e un'inflazione pari a zero non sono infatti riusciti a bloccare i prezzi di prodotti e servizi tipicamente estivi, che secondo l'Istat sono aumentati in luglio del 4,7% rispetto all'anno prima. A pesare sono soprattutto le tariffe degli stabilimenti balneari, rincarati del 4,3%, e gli affitti degli appartamenti nelle località di villeggiatura, saliti in media del 3,4%. È andata meglio a chi ha scelto un pacchetto vacanza tutto compreso, una voce con costi in discesa dell'1,3% rispetto a luglio del 2008. Luci ed ombre per quanto riguarda viaggi e spostamenti: risultano infatti sensibilmente più cari di un anno fa i trasporti marittimi, più 8,8%, e quelli ferroviari, più 6%. Viceversa, il costo dei biglietti aerei è sceso di ben il 18%. È andata meglio di un anno fa anche a chi ha scelto l'auto: a fronte di pedaggi più salati, benzina e gasolio risultano meno cari rispettivamente del 16% e del 28%. Bisogna tuttavia ricordare che nell'estate 2008 i carburanti viaggiavano su livelli da record storico, con la benzina verde ben al di sopra di 1,5 euro al litro. Al di fuori del capitolo viaggi e vacanze, risultano in crescita dell'1,5% i prezzi degli alimentari, anche se nell'ultimo mese frutta, verdura, pasta, latte e pesce hanno registrato delle flessioni. In sensibile calo il costo delle bollette: gas ed elettricità si pagano infatti il 5% in meno del luglio 2008. Modesti aumenti poi per vestiti e calzature, mentre è sceso in media del 2,7% il costo dei farmaci. Spiccano infine le variazioni di prezzi di prodotti tecnologici, come i navigatori satellitari, meno 11% in un anno, e quelli dei cellulari, in calo del 12%. Qualche vantaggio, l'abbiamo detto più volte, può arrivare ai lavoratori dipendenti, a chi ha la busta paga, lo stipendio fisso, perché comunque leggermente, piccoli passi rispetto alla sbella dell'euro sulla lira, ma un po' di potere d'acquisto si può recuperare. Lo dico perché vorrei legare oggi questo dato dell'Istat alla continua così querelle politico-economica sulle gabbie salariali. Parleremo anche invece dei lavoratori dell'INS, che hanno avuto ragione, perché poi l'offerta è veramente arrivata. Qualche dubbio su come mai, diciamo, Silvano Genta non riuscisse a trovare un compratore, quando invece poi addirittura è spunta fuori la Camozzi. Vabbè, comunque bravi i lavoratori dell'INS, va detto, perché tenendo botta sono riusciti ad arrivare a un compratore invece che svendere un'impresa, visto che poi il Made in Italy viene... La difesa della nazionalità viene sempre citata così, quando fa comodo. Ma noi restiamo sulle cosiddette gabbie salariali, perché se il Presidente del Consiglio Berlusconi oggi al giornale ha detto: io non ho mai parlato di gabbie salariali, non ho mai detto di sì, ho solo fatto un riferimento alla contrattazione aziendale e al rapporto che già esiste con la modifica degli... a gennaio del quadro di riferimento sui contratti. Oggi, sempre su un altro quotidiano, mi riferisco alla Stampa di Torino, il ministro Roberto Calderoli rilancia con nuove proposte. Dice: toglierei subito l'IRES alle aziende che aprono o creano nuova occupazione, per quello che riguarda il sud, e meno IRPEF al nord. Il tutto però, attenzione, in un giorno in cui la Banca d'Italia ci fa sapere, perché poi con i conti pubblici bisogna avere a che fare, è che le entrate fiscali sono andate maluccio: meno 6 miliardi in 6 mesi, meno 3,3%, e vanno bene però le imposte dirette. Il calo, quindi, da quello che si capisce, sarebbe da attribuirsi soprattutto alle imposte indirette, IVA in primo luogo. Professor Carlo Della Ringa, buonasera. Buonasera a lei, gli ascoltatori. Lei insegna economia politica all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, ha diretto anche il dipartimento che si occupa della contrattazione del pubblico impiego, la metto un po' in maniera un po' semplicistica, ed ecco perché le faccio sentire cosa ha detto ieri ai nostri microfoni il nostro ospite, il ministro Brunetta, sul tema degli stipendi della pubblica amministrazione, perché si dice chi lavora per un ministero, per la questura, per tutto quello che ha a che fare con la pubblica amministrazione, beh, la differenza la sente molto tra nord, che lavori al nord in un grande centro urbano, oppure al sud. Tornare alla rigidità, cioè a aree rigidamente definite in termini di dinamiche salariali, non solo è anacronistico, ma sarebbe un gravissimo errore. Il mercato del lavoro italiano e la contrattazione italiana ha bisogno di flessibilità a caccia di efficienza. L'efficienza si raggiunge correlando i salari alla produttività, e la produttività ingloba anche le differenziazioni territoriali in termini di costo della vita. Ed è la contrattazione, cioè il mercato, a stabilire dove si forma la produttività e come distribuire in maniera efficiente la produttività e i guadagni di produttività. In nessun paese di economia di mercato il governo definisce i salari. Quello che il governo può fare, se pensa che la contrattazione di secondo livello, la contrattazione aziendale, la contrattazione decentrata, tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, sia un bene pubblico, vale a dire sia un qualcosa da perseguire, perché flessibilizza il mercato del lavoro, perché aumenta l'occupazione, perché migliora la distribuzione del reddito, perché migliora l'efficienza, perché migliora la produttività, se il governo pensa che la contrattazione decentrata sia un bene, allora può destinare a questo bene degli incentivi fiscali e contributivi, e cioè dire: voi fate quello che alle parti, voi fate quello che volete, sappiate però che se una parte rilevante della vostra contrattazione sarà destinata alla contrattazione decentrata, io vi premio. Quindi, secco no del ministro Brunetta all'ipotesi di gabbie salariali, di un governo che decida più o meno come debbano muoversi i salari a seconda dell'area geografica, e invece apertura, professor Della Ringa, all'idea che lo Stato possa favorire fiscalmente la parte di contrattazione più aziendale, più legata quindi all'azienda e non al territorio. Prima domanda per lei: anche lei ritiene che le gabbie salariali siano così un argomento un po' di colore agostano, che può fare un po' di polemica, ma che non ha nessuna attuazione pratica possibile? Beh, certo, sì, ormai sembrano essere tutti d'accordo su questo, anche sì. Il Presidente del Consiglio ha vocciato l'idea delle gabbie salariali. A questo punto c'è un ampio schieramento di forze che è contro questa idea che con una legge da Roma si possa, diciamo così, fissare differenze retributive nelle varie regioni. Sarebbe veramente un sistema troppo rigido quando tutti invocano maggiore flessibilità. Quindi chiaramente di gabbie non credo che se ne potrà più parlare più di tanto, invece importante è il discorso del decentramento della contrattazione e meccanismi di determinazione delle retribuzioni sul territorio e nelle aziende, con ampia autonomia data alle parti sociali. Ecco, perché a me sembra di vedere che in queste tre puntate che abbiamo dedicato al tema, che ci possa essere anche il rischio, come si dice, di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Perché è vero che di gabbie salariali c'è una provocazione, non ha nessun senso, non si raccoglie nel governo, nemmeno nel governo, alcuna adesione significativa. Però il tema, diciamo, del potere d'acquisto, del costo della vita, è un tema che nel frattempo viene anche rilanciato dalla Banca d'Italia. Il 16,5% è il divario del costo della vita tra nord e sud del paese, ma allo stesso tempo sempre la Banca d'Italia ci ha fatto notare che il salario in busta paga al nord, al centro nord, è del 15% più alto rispetto al sud, e anche altre classifiche che vanno a vedere dirigenti, manager, quadri, operai, impiegati, dimostrano in sostanza differenze analoghe. Ancora si è scoperto sempre dalla Banca d'Italia che i mutui sono più alti come tassi praticati al sud, addirittura si arriva all'1% di differenza tra la Puglia e il Piemonte. Per cui, insomma, un paese diviso anche nel potere d'acquisto e dal punto di vista economico merita anche una contrattazione che sia, da questo punto di vista, che tenga conto delle differenze territoriali. Che cos'è che rischia o che impedisce un ragionamento di questo tipo? Perché, prego. In parte c'è già, perché noi dimentichiamo sempre che le buste paga di tutti i lavoratori sono fatte di diverse componenti. Ce n'è una uguale su tutto il territorio nazionale, sono i minimi fissati dai contratti collettivi. Questi occupano circa mediamente un 70-80% della retribuzione complessiva. Però qui c'è una grande varianza di questa, diciamo così, composizione. I dirigenti, per esempio, hanno una componente fissata a livello aziendale e individuale molto ampia, gli operai un po' di meno. nella grande industria questa componente aziendale molto più ampia che non nella piccola industria, e sul territorio, come ci dice la Banca d'Italia, è chiaro che nelle aziende del nord si paga un salario in più rispetto al salario nazionale, che è molto più grande di quello che pagano le imprese del sud. Quindi voglio dire, c'è già una certa flessibilità delle retribuzioni che tiene conto sia del costo della vita, sia della diversa produttività delle aziende e sia anche delle condizioni del mercato del lavoro locale, perché anche questo bisogna tenere presente. In ampie zone del sud la disoccupazione è 3 volte tanto quella del nord. Quindi non bisogna legare i salari a specifici indicatori, diventa impossibile farlo a livello nazionale come se fosse un piano bulgaro. Sì, anche perché tutti dicono sempre centro, nord e sud, io direi molto spesso anche periferia, campagna e grande metropoli, perché non c'è solo la distinzione, diciamo, geografica da nord a sud. Vivere non c'è dubbio che una differenza fra due città, una grande e un villaggio, piccolo paese della campagna, ci può essere una differenza di costo della vita più forte di quella che c'è fra Napoli e Milano. Sì, e questo lo dice anche la Banca d'Italia, devo dire, nel rapporto su, e altri dati nel rapporto su quanto costi per un singolo vivere a Milano piuttosto che a Bari o in altre città. Professor De Laringa, visto che lei conosce da vicino il mondo del pubblico impiego, ieri il ministro Brunetta ha ricordato come il contratto firmato a gennaio dalle imprese e dai sindacati, tranne che la CGIL, è stato firmato anche dal pubblico impiego, cioè maggiore spazio alla contrattazione aziendale e quella nazionale resta a fare da cornice, da quadro. Brunetta faceva notare però che le regioni, cioè gli enti locali, non hanno ancora invece sciolto questo nodo, però a livello comunale e anche provinciale una certa contrattazione territoriale a questo punto c'è già per i dipendenti del comune, oppure no? Certo che c'è, qui bisogna distinguere, nel pubblico impiego fanno una distinzione molto importante, quelle amministrazioni che sono nazionali e centrali come i ministeri e la scuola, e quelle amministrazioni invece che sono locali, regionali, territoriali come la sanità, gli enti locali per esempio, e che da soli fanno più di 1 milione di dipendenti. Questi qui certamente hanno anche loro il loro contratto nazionale che fissa dei minimi che sono uguali per tutti, ma in aggiunta a questo le singole amministrazioni, nel rispetto del patto di stabilità interna, possono fissare delle remunerazioni accessorie che possono essere diverse da regione a regione. Il problema è come queste retribuzioni accessorie vengono utilizzate, se in modo virtuoso, legandole alla produttività, o invece per regioni che non hanno niente a che fare magari con la produttività. Questo è un discorso che riguarda certamente la gestione del personale nelle varie aree territoriali, negli enti locali, nei comuni e nelle regioni, ma non c'è dubbio che gli strumenti ci sono, dobbiamo vedere se li utilizzano al meglio. Ah già, adesso i comuni del nord pagano almeno un 4-5% in media in più dei comuni del sud. Per cui tengono conto di una differenza anche nel costo della vita. E probabilmente forse hanno anche bisogno di rendere, questo lo aggiungo io, un po' più allettanti i salari, visto che in molte regioni del nord la disoccupazione fino perlomeno al 2008 era sotto livello fisiologico, per cui era anche difficile trovare probabilmente qualcuno che andasse a fare quel lavoro. Grazie a professor Carlo De Laringa, io spero con questa puntata, non si può mai dire, di aver chiuso il tema delle gabbie salariali, perché quello che abbiamo capito dai diversi ospiti che abbiamo avuto, dal presidente della Confindustria Sicilia, dal ministro Brunetta, oggi dal professor De Laringa, è che gli strumenti ci sono già, si possono adoperare, esistono tutti gli strumenti contrattuali, della giurisprudenza, degli accordi presi per avere contrattazioni che tengano conto della produttività e anche appunto delle esigenze della singola impresa o dell'ufficio della pubblica amministrazione. Nel frattempo, chi il problema delle gabbie salariali non ce l'aveva, il problema del salario vero e proprio, erano i dipendenti della INSE, un caso ormai arcinoto, perché appunto alcuni di questi si erano legati sulla gru, sono adesso scesi, però la cosa importante è che ha di fatto un nuovo proprietario, la INSE, un'azienda metalmeccanica milanese. La lotta durata mesi per evitare lo smantellamento sarà acquisita dalla Camozzi di Brescia, che tra l'altro guida in realtà una cordata di imprenditori lombardi. Accordo firmato ieri notte in prefettura Milano, praticamente sono scesi anche gli operai che stavano sulla gru all'interno dello stabilimento, e l'azienda, ma a questo punto con il nuovo proprietario, vedrà salvati i 49 posti di lavoro. INSE, io lo ricordo a tutti, era una storica officina del quartiere milanese di Lambrate, famosa per la meccanica pesante, per il montaggio di presse e laminatoi, e tra l'altro acquisita 3 anni fa da parte di Silvano Genta per 700.000 euro. Nonostante quello che gli operai lamentavano, che nonostante la qualità della produzione e l'arrivo di nuovi clienti, venisse annunciata la chiusura dello stabilimento. Tra l'altro, in 3 mesi di autogestione, i 49 operai della fabbrica sono riusciti a superare i 170.000 euro di fatturato. Adesso le varie dichiarazioni, un dato di fatto però senza nessun populismo, evidentemente in questo caso i dipendenti avevano ragione, perché poi, come si è minacciata la cosa più così eclatante, sono arrivati i compratori. Ci si chiede perché non si siano trovati in questi 2 anni e soprattutto negli ultimi mesi così travagliati. Forse si voleva vendere, basta, ma è solo un sospetto. Sentiamo intanto il neo proprietario, cioè Attilio Camozzi, patron dell'omonimo gruppo bresciano, che ha rilevato la INSE di Milano. È un nome storico, ha dato al mondo della meccanica grosse soddisfazioni, ha dato all'Italia un nome, un'immagine non indifferente. Penso che non dovrebbe essere difficile portarla in auge, diciamo, come immagine, come nome. Siamo contenti anche noi, perché la Camozzi è un bellissimo gruppo di Brescia. Ripeto, anche chi scrive, ribadisco tutti i miei dubbi sulla reale voglia di trovare un compratore. Se poi è bastato, tra virgolette, legarsi su una gru perché arrivasse un compratore, forse non tutte le strade erano state esplorate, così va bene, in maniera un po' più morbida. Sentiamo invece le prime dichiarazioni degli operai Fabio, Massimo, Vincenzo e Luigi, che per una settimana sono rimasti legati, insomma, sopra la gru. Ma i giorni sono stati anche duri, perché sotto sei attaccato al tetto al caldo. Caldo di giorno, caldo di notte, tranne un'altra notte che c'è stato il temporale, era rinfrescato un po'. Comunque è dura stare su. Poi abbiamo sentito urlare fuori e abbiamo capito che era vera. C'erano dei rischi ancora, anche se ci avevano detto che le possibilità erano ottime di riuscita. È andata bene. E ora si continua, il bello deve ancora venire, perché non è che è finita qua. In 15 mesi siamo andati sull'otto volante, su, giù, per cui non ci spaventava più niente. C'è stato prima un momento tragico, perché abbiamo visto i testi che erano in ballo e volevamo delle modifiche serie, nel senso che volevamo che fosse scritto che l'assunzione è per tutti. Invece nel testo che avevano proposto c'era un po' di ambiguità. Quello che aveva proposto Camozzi, per cui siamo dovuti stare attenti fino alla fine. Ringrazio tutti quanti, ci hanno creduto fino in fondo sin dall'inizio della nostra lotta, e speriamo che questa lotta sia di esempio per altri operai che sono nelle nostre situazioni. Ringrazio tutti. Ribadisco, quello che è strano in questa vicenda è non che vi fosse una impresa in difficoltà, purtroppo non è l'unica, e quando un'impresa è veramente in difficoltà deve anche avere la possibilità, con tutti gli ammortizzatori sociali, di ridurre l'occupazione, e ci auguriamo di no anche di chiudere, ma che evidentemente la fabbrica e il gruppo INSE fosse più sano di quanto non venisse presentato, se poi si è arrivati a un compratore serio in un tempo relativamente breve, negli ultimi giorni. Quindi questa è anche l'idea di Maria Ciancatti, segretario della FIOM di Milano. Chi oggi acquista quella fabbrica sa che acquista degli impianti importanti che stanno sul mercato, che potranno essere competitivi, ma soprattutto avranno una parte lavorativa, i lavoratori che hanno questo grande senso di, come dire, di riconoscimento, di idea di che cos'è il lavoro, che cos'è la propria prestazione lavorativa, cosa che ultimamente, in questi ultimi 10 anni, 20 anni, non è facile da trovare. E dopo la firma dell'accordo, la Edes, che è la società proprietaria del terreno su cui sorge l'immobile, lo stabilimento, scusatemi, è caduta pesantemente in borsa, tuttora il peggior titolo, meno 9,5%, tant'è che poi ha precisato un'ora fa, sempre la Edes, che l'accordo sarà valido solo dopo che Comune e Regione avranno emanato i provvedimenti autorizzativi per altre aree di proprietà della stessa Edes. Evidentemente lì si voleva costruire più che mantenere la fabbrica, anche questo è quello che capiamo noi. In diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa e poi gli accordi. Dico accordi perché c'è quello più grosso, che è quello tra fisco americano e UBS, quindi colosso bancario svizzero, ma c'è anche l'accordo tra Liechtenstein e governo britannico, 5.000, da quello che si capisce, conti correnti di cittadini britannici che tramite questo accordo potrebbero ricevere di fatto un condono, un'amnistia, scusatemi, per chi si regolarizza e quindi regolarizza la sua posizione fiscale verso il governo britannico. Andiamo con ordine, però prima di tutto le borse che hanno girato, o meglio hanno anche rafforzato i guadagni, erano molto incerte a metà mattinata, più 0,1 più 0,2, questo era l'ordine dei rialzi. Poi dopo l'apertura di Wall Street sono tutti in rialzo di più di un punto percentuale. L'America infatti guadagna l'1,4% sul Dow Jones, Parigi guadagna un punto e mezzo, Francoforte l'1,2% e Londra lo 0,80%, Milano più 1,3%, di nuovo in evidenza alcuni settori, penso soprattutto alle costruzioni. Buzzi Unicem ormai è 11 euro per azione, ma molto forte anche la Popolare di Milano, più 4,6%, UbiBanca più 2,3%, Unicredito più 2,2%, Fondiaria più 2,1%, bene anche Enel più 2,7%, Autogrill più 2,2%, Mediaset sempre sulle ipotesi spagnole più 2%, Pirelli più 1,90%, come Telecom Italia, e le CIR in pregilo più 1,80%. Chi perde in borsa? Tenaris meno 1,5%, Mediobanca meno 0,90%, Ansald STS meno 0,6%, come Luxottica. Il commento con Radio Core, Il Sole 24 Ore, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera. Che cosa ha fatto girare le borse in maniera così decisa? Beh, certamente tu ricordavi le indicazioni arrivate a Wall Street, che ha progressivamente allargato il rialzo e adesso guadagna quasi l'1,5%, anche il buon recupero, progressivo recupero messo a segno dal greggio che sta ora a 70,74 dollari al barile, ma diciamo una maggiore fiducia nel pomeriggio che ha investito soprattutto il settore dell'energia e delle società di servizi di pubblica utilità, le utility e anche i bancari. Sono stati questi due settori a recitare un po' la parte da protagonista un po' su tutte le borse europee. Buzzi Unicem ha fatto benissimo lunedì, netto calo ieri, oggi recupera, quindi insomma mi sembra che ci sia anche un po' di speculazione sul titolo. Gli energetici invece? Guarda, gli energetici sicuramente l'orientamento è stato dato dai conti di E.ON, dal gruppo appunto tedesco dell'energia, che ha registrato un primo semestre con utili in netto rialzo più 45% rispetto allo stesso periodo del 2008, ha anche migliorato le stime sugli utili 2009, hanno reagito bene un po' tutti i titoli del comparto, non solo in Germania ma anche sugli altri listini. Enel è stata una di questi, ha progressivamente recuperato terreno, ha chiuso oltre quota 4 euro, cosa che per Enel non succedeva dalla metà di febbraio di quest'anno, quindi ai massimi da 6 mesi. Bene anche altri, bene i bancari, non tutti devo dire, Intesa guadagna meno, lo 0,3%, e Monte dei Paschi oggi si ferma a un più 0,4%, ma è ormai tre sedute che vediamo la Popolare di Milano continuare a crescere, è arrivata quasi a 5 euro per azione e anche oggi porta a casa il 4,6%, UBI più 2,3%, Unicredit più 2,1%. E sicuramente la Popolare di Milano è oggetto di maggiore attenzione da parte degli analisti in questa fase, società che deve ancora comunicare i dati semestrali, lo farà dopo questa la pausa estiva, quindi nell'ultima settimana di agosto, lo stesso farà UBI Banca, invece in ottimo stato di forma il titolo Unicredit, oggi premiato anche dalle indicazioni di Credit Suisse, che ha anche alzato le indicazioni di utili sul 2010-2011, si aspetta che questo titolo, nonostante abbia già un po' recuperato nell'ultimo mese, abbia ancora spazio per recuperare, come tu dicevi invece un po' sottotono Mediobanca e inizialmente Intesa San Paolo, forse anche dice qualche operatore, qualche analista, per i punti interrogativi rispetto alla ricapitalizzazione di Telco, cioè la scatola che controlla la quota di riferimento di Telecom Italia. Ecco, va detto che Unicredit è tornata sui livelli del settembre 2008, quindi sicuramente siamo praticamente ai livelli di fine settembre, inizio ottobre, perché ormai il titolo vale 2 euro, 2,38 euro. Certo, siamo distantissimi dai livelli dei 6 euro per azione del metà del 2007, però si è recuperato, se non potesse mostrare un grafico in radio, si è recuperato tutto il calo, la voragine che è iniziata sui titoli bancari e finanziari con lo scoppio della parte più virulenta della crisi, ossia da settembre in poi siamo tornati sui livelli di metà fine settembre, e anche questo è importante come analisi tecnica. Fiat debole oggi, pesano le parole di Angela Merkel di ieri, che dice in sostanza per noi l'unica opzione, l'opzione da preferirsi su Opel è Magna. Sì, certamente se qualche operatore aveva scommesso su una riapertura dell'operazione, come peraltro era stato segnalato dal fondo americano in corsa per conquistare Opel, cioè che le trattative fossero ancora aperte, che le indicazioni emerse ieri e rimbalzate oggi sui giornali rispetto all'orientamento del governo tedesco hanno un po' chiuso la porta a eventuali speranze per quanto riguarda Fiat. Una Fiat sottotono per gran parte della giornata, che però ha risentito bene anche del recupero finale delle borse, ha chiuso poco sotto la parità, meno 0,12%. Ancora ERG, perché parliamo anche di conti, perché ERG ha chiuso i primi 6 mesi del 2009 con un margine operativo lordo di 24 milioni di euro contro i 310 del 2008 e una perdita di 38 milioni di euro, mentre i primi 6 mesi del 2008 ERG aveva un guadagno, un utile di 56 milioni di euro. Però l'amministratore delegato Alessandro Garrone ha ricordato che questo è l'effetto di scenari energetici caratterizzati da molta contrazione della domanda e ha gli occhi puntati su altri investimenti nel settore. Eppure il titolo? Sì, il titolo ha perso oltre il 2%, è scesa sotto la quota 10 euro, certamente hanno pesato i conti, ma hanno pesato anche le indicazioni che non sono state certo ottimistiche da parte di Garrone per la seconda parte dell'anno. Garrone si aspetta che in tale contesto macroeconomico i risultati del secondo semestre siano in linea con il primo semestre, quindi inferiori rispetto al secondo semestre dello scorso anno, quindi certamente non si vede la luce per quanto riguarda i conti di Erga. Il mercato, pure una giornata vivace di rialzo, ha penalizzato il titolo. Unicredit è arrivata a 2,96. No, io dal computer vedo l'ultimo prezzo di Unicredit a 2,38 euro. Comunque poi vedremo il prezzo finale. Ultima domanda riguarda invece il gruppo Edes, visto che ricordavamo come si è chiusa positivamente, per fortuna per i dipendenti e gli operai, la vicenda INS. Come mai è il peggior titolo oggi in borsa la società che è proprietaria dell'area dove è collocata la fabbrica INS? Beh, bisogna dire che Aedes è particolarmente volata nell'ultimo periodo, aveva superato anche quota 0,4 a 0,4 euro alla fine di luglio, con un'impennata che ricorderete era anche figlia della ristrutturazione societaria. Questa impennata è rapidamente rientrata nella prima parte di agosto. Il titolo è tornato abbastanza in linea con quelle che erano le quotazioni della seconda parte di luglio. Ultima parte di Focus Economia. Allora, la Gran Bretagna e Liechtenstein hanno stretto un accordo per incoraggiare i clienti britannici delle banche del Principato a far emergere volontariamente i loro patrimoni, o meglio, quei patrimoni depositati in Liechtenstein e che si ritiene abbiano eluso le tasse del governo britannico. Condizioni speciali tra il 2010 e il 2015, una tassa flat, come capisco io, mi sembra uno scudo fiscale, ma ci capisco poco. Una tassa comunque flat vuol dire fissa come le tariffe dei telefonini, per far rientrare, per palesare, rendere noti i capitali depositati. E ancora, secondo il Financial Times, sono circa 5.000 gli investitori britannici che hanno un patrimonio di circa 2-3 miliardi di sterline in conti segreti nelle banche del Liechtenstein, a cui verrà chiesto di dichiarare i dettagli dei conti alla luce di questo accordo. Ed è un modo per far emergere i conti non dichiarati senza fare scattare sanzioni. Quindi prosegue anche l'attività di alcuni stati europei contro i paradisi fiscali. Ben più ampia come numeri invece è la disputa che sembra essersi chiusa tra UBS, colosso bancario svizzero. Prima della crisi era la prima banca in Europa, non so adesso obiettivamente per capitalizzazione se sia ancora la prima banca in Europa. Comunque, durante la crisi finanziaria UBS ha perso circa 58 miliardi di dollari, in buona parte però si è ricapitalizzata. Secondo il fisco americano, ossia l'IRS, vi sarebbero conti correnti di quasi 52.000 cittadini americani presso la UBS, con miliardi di dollari non pagati al fisco americano. L'accordo, dopo un braccio di ferro, si voleva a tutti i costi, perché insomma, UBS teme sennò di continuare a perdere clienti americani. Ne ha già avuto comunque 15 miliardi di dollari di uscite da di conti correnti chiusi. Allora ci colleghiamo con Lino Terlizzi in Svizzera. Buonasera Lino. Buonasera. L'accordo c'è stato e che cosa prevede? E questa è proprio la domanda. Il punto dolente, perché in sostanza è un'atmosfera abbastanza irreale o surreale, se preferite, perché questo accordo in linea di massima era già stato annunciato, sì, il 31 luglio scorso. Poi si è detto i dettagli non ci sono ancora. Il giudice Alan Gold del Tribunale di Miami, che è quello che sta sin qui, ha tenuto un po' i fili della vicenda, perché c'era appunto il pericolo che ci fosse un processo vero e proprio per UBS, doveva essere già aperto, poi è stato rimandato. Fatto sta che per la terza volta questa mattina americana, primo pomeriggio nostro, il giudice Gold ha chiesto alle parti: avete questo accordo oppure no? E entrambe le parti, cioè il fisco americano sorretto dal governo americano, UBS sorretto dal governo elvetico, hanno detto sì, ce l'abbiamo, l'abbiamo, come si dice in gergo tecnico, parafato questa mattina, e però i dettagli, sin quando i due governi non avranno firmato anche loro, non li renderemo noti. Però le voci sono sempre insistenti, chiaramente, e le voci sono che ci sarà un certo numero di nomi di clienti americani di UBS che saranno consegnati al fisco americano, seppure attraverso un meccanismo che, questo è il compromesso faticoso, difficile, vedremo come sarà fatto, perché non è facile, da parte del governo elvetico, con una procedura che comunque consenta di non contraddire, appieno le norme elvetiche vigenti sul segreto bancario. Cosa gli danno? Il nome, danno nome e cognome senza le ultime due lettere, non so. Può darsi, potrebbe essere una soluzione, la vedo male sui cognomi tedeschi, ma comunque su quelli magari italiani o francesi. Perché comunque sono... Questi sono americani. Esatto, il fisco americano sostiene che questi soldi in Svizzera, di questi 54.000, 52.000 correntisti, siano stati soldi evasi, dove insomma occultati, guadagni occultati e portati in Svizzera. Già è iniziato a Miami il primo processo contro un evasore confesso, un uomo d'affari, Robert Moran, che aveva depositato in Svizzera 3 milioni di dollari. È ovvio che tutta questa campagna entra anche in questa politica di Barack Obama, in cui con un'amministrazione che ha speso 1.300-1.500 miliardi di dollari per salvare la finanza e le banche americane, si vuole anche andare a recuperare i soldi per un motivo fiscale ed economico, ma anche per un motivo politico, che come potrebbe chiudersi, perché tu giustamente ricordavi, Lino, che in questo caso non è come nel caso di Liechtenstein, che di fatto è quasi uno scudo fiscale, da quel poco che ho capito. Qui l'amministrazione americana vuole i nomi per accusare di evasione fiscale, di frode, 52.000 dei suoi cittadini. C'è una differenza sostanziale, in effetti hai ragione, nell'atteggiamento del governo americano, e c'è anche una differenza secondo me nell'atteggiamento del governo svizzero, che è un po' diverso da quello del Liechtenstein, che è chiaro che si è arricchito facendo piazza finanziaria, ma però è più debole rispetto alla Svizzera, che amministra molti più patrimoni, che ha un sistema diverso. Ecco, diciamo, il fisco americano vuole quei 52.000 nomi, in effetti, per poi indagare su di loro e, se del caso, accusarli apertamente o di frode o di evasione fiscale. La posizione della Svizzera è che i 52.000 nomi in blocco non li può dare, perché in realtà si tratterebbe di phishing, di una pesca indiscriminata che è contraria alle leggi elvetiche. Allora l'ipotesi di compromesso, che ancora adesso in queste ore, vedremo se sarà così, sta correndo, è che i nomi ne vengano dati 5.000 o da parte americana, i giornali americani dicono 10.000, comunque una parte dei 52.000 su cui graverebbero il condizionale d'obbligo degli indizi più pesanti, e questo verrebbe fatto attraverso una procedura di assistenza o amministrativa o giudiziaria elvetica accelerata, quindi abbastanza abnorme rispetto al passato, che segna un po' la differenza rispetto a tempi passati. Lino Terlizzi, ma è vero che UBS comunque vuole chiudere questa vicenda, non solo perché non è bello avere un contenzioso aperto con il fisco americano, ma anche perché ha avuto una vera e propria fuoriuscita. Noi citavamo un dato intorno ai 14 miliardi di euro di conti correnti chiusi, perché è chiaro che la Svizzera, è inutile nascondersi dietro un dito, ha fatto del segreto bancario la grande arma per diventare così attraente per i conti correnti di tutto il mondo, no? Sì, è vero che la UBS vuole chiudere questa vertenza, e soprattutto vorrebbe chiuderla senza una nuova maxi multa, perché bisogna ricordare, è vero, ne ha già preso che UBS una. Ha già pagato 780 milioni di dollari, che si sono aggiunti agli oneri straordinari di questa fase di crisi, e ha già consegnato circa 250 nomi, d'accordo con il governo svizzero, su cui appunto gravavano indizi pesanti, con procedura straordinariamente accelerata. Ma UBS vuole chiudere per motivi economici, chiaramente vuole tirarsi fuori da questa vicenda molto complicata, molto pesante per la banca, e certo i deflussi ci sono stati. Io credo però, ecco, lì va precisato che secondo me non sono stati solamente per questa vicenda legata al segreto bancario negli Stati Uniti, ma anche perché c'è stata un po' la crisi della banca, certo, e quindi i deflussi, c'era il timore, di capitali sono legati anche a quello. Ricordiamo, per essere oggettivi, anche che comunque la banca rimane ai vertici dei patrimoni amministrati, sì, a livello mondiale, non è più forse la prima, è la seconda, comunque ne ha ancora molti. Tuttavia è vero che per UBS prima si esce da questa vicenda meglio è. Sì, anche perché UBS ha un ramo importantissimo delle sue attività bancarie negli Stati Uniti, quindi se tu sei in contenzioso con il fisco americano, poi rischi di avere problemi a operare negli Stati Uniti. Ecco il perché, e devo ribadire che la cifra di Lino Terlizzi è quella corretta: UBS si è già beccato una multa da quasi un miliardo di dollari, 780 milioni, per non aver consegnato i nomi, e poi ne ha consegnati solo 300 per ora, di quelli messi nella posizione più critica. Vedremo come andrà e come si chiuderà una partita che per la Svizzera, ma qui dovremmo fare un altro programma, è quasi culturale, quasi epocale, non è solo un problema di evasione presunta, è proprio un problema di quello che la Svizzera ritiene diritti individuali, su cui ha costruito anche un piccolo impero. Grazie a Lino Terlizzi, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio al nostro GR, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto per ora l'auguro di una buona serata.